Passione Africana di Gigi Donelli e Roberto Antonini. Ben ritrovati da Roberto Antonini. Convivere, convivere con il proprio passato, ma anche convivere tra carnefici e vittime è una necessità per il futuro del Ruanda. Gran parte dei responsabili del genocidio sono stati giudicati dai tribunali popolari tradizionali, i Gacaca. Centinaia di migliaia di persone hanno dovuto rispondere di crimini e difendersi nelle piazze dei villaggi davanti alla popolazione. Oggi, 16 anni dopo, quasi tutti, o meglio quelli che sono sopravvissuti alle durissime condizioni di reclusione, sono liberi e vivono accanto ai sopravvissuti e alle famiglie delle loro vittime. Gofroa è uno di loro, è oramai anziano e vive in una casupola nella campagna, non lontano da Kigali. Sono stato in prigione 8 anni e 6 mesi, sono stato accusato di aver partecipato al genocidio, racconta. Proprio in questo villaggio, chiediamo? Sì, risponde, facevo parte di una banda che ha partecipato al genocidio, proprio in questo villaggio. Ma chi vi aveva detto di uccidere? Perché lo avete fatto? Noi siamo stati mobilitati e organizzati dal potere, ci hanno detto di partecipare alle milizie interamue e di andare ad uccidere. Insistiamo, ma chi vi ha detto di ammazzare tutti i Tutsi, vicini, donne, uomini, anziani, bimbi? È stato all'inizio il governo che ha dato ordine alle autorità locali, e risponde Gofroa. Io ho sentito queste autorità, loro mi hanno detto di andare a uccidere e hanno detto che era nostro dovere dopo l'abbattimento dell'aereo del presidente. Dicevano che erano stati Tutsi e che bisognava eliminarli tutti. Un passato che a Gofroa sembra lontano. Lui è stato giudicato, ha scontato quasi 9 anni di prigione e sopravvissuto a condizioni di reclusione estreme. Ora, dice, tutto è cambiato. Quando sono uscito di prigione ho allacciato buoni rapporti con la gente qui e con le famiglie delle vittime, non ci sono assolutamente problemi. Parole che sembrano sincere, ma sono parole che tutti i carnefici pronunciano. In Ruanda è impossibile trovare qualcuno che ti dica che il pericolo di un eccidio esiste ancora. Una speranza reale o forse un'illusione? Difficile, forse impossibile sapere. Passione Africana è stata realizzata da Radio 24 in collaborazione con Eni.